parlo poco che m'affanno, è uno strazio tutto l'anno, vita amara ma non piango, scendo in basso poi risalgo su e giù, giù e su, non mi stanco. Gesù Cristo, quante ne ho viste, quante ne ho perse, tra vecchie cose nuove ci sono delle pause, sentirsi persi in mezzo a due fasi diverse, mezzo ragazzo, mezzo uomo, alle prese con controversie di un mondo apparentemente nuovo, evidentemente controllato da cerchie ristrette e protette. Adesso ha più senso tutto ciò che mi circonda, affonda nell'ipocrisia, menzogne su menzogne, tecnocrazia, crisi finanziaria, stress, manca l'aria, voglio volare via, lontano nostalgia, portami via, lontano via da qua, che già ho capito come cazzo va, merda oggi se la fai o te la fanno magna. Vita mia, dietro una vita c'è sempre una bugia. Vita mia, tu che mi sfidi sempre, lascia che io sia. Freddo fuori, freddo dentro, mente accesa, cuore spento. Se mi pensi adesso è passato troppo tempo. Ogni cosa ha suo tempo, ogni cosa ha un suo senso. Scoprire di aver perso tempo, vedere un mondo diverso, cambiare tutto nel tempo di un amplesso. Non riconoscere più te stesso nello specchio riflesso, accesso, cercare la felicità nel sesso. Non ti ascolta più nessuno, parla con te stesso. Spesso l'oggetto ha più valore del soggetto. Ossessioni, riflessioni su complessi, degenerazioni, depressioni, sinonimi di grandi illusioni, ansie, paure, frustrazioni iniettate nel cervello da giornali web e televisioni, la distruzione di imperi, di valori, umanizzare macchinari, disumanizzare umani e avere più fiducia in veri amici, i cani. Vita mia, dietro una verità c'è sempre una bugia. Vita mia, tu che mi sfidi sempre, lascia che io sia. Vita mia, dietro una verità c'è sempre una bugia. Bugia, bugia, bugia. Fottuta politica, fottuta religione. Se ti senti male non andare dal dottore. E se non sai più amare è per colpa di un troione. Brutta storia, bella stronza, vieni in bocca, bella zozza. Metti corna, mette corna, torna tutto, giro tondo. Gira, gira, torna conto, gira, gira, gira al mondo. Riso abbonda sulla bocca di chi non scorda. Sangue freddo, mente aperta, soffri prima, poi vendetta. Vita insegna, vita parla, vita ascolta. Ma non da maretta, scrivi la tua storia. Vivi in sogno, dentro il sogno, fantasia. Ti dà gloria, poi si scorda, misericordia. Vita mia, dietro una verità c'è sempre una bugia. Vita mia, tu che mi sfidi sempre, lascia che io sia. Vita mia, dietro una verità c'è sempre una bugia. Vita